extra che seguiva a campo, no, delle... Allora, chi era il Folletto, l'uomo rosso, una roba, il Folletto rosso, ma spaventare, solo per spaventare, ho sentito le contee, ho fatto i deboci, dopo forse perché, mi? Perché non è più sincera verità, ma mi si mi dicesse, guarda, ti do 100 milioni, sta su una nota da dormire sola, bianca da morire, non stavi a su, no. E beh, adesso.